La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Venite voi falsari di notizie, mercanti di voci e faccendieri, voi politici massoni e voi giudici teoreti di misteri. Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata della prima volta. L'ospite di oggi è Franco Latorre, in libreria dal 27 aprile col libro Sulle ginocchia, Pio Latorre, una storia, edito da Melampo Editore. Il 30 aprile del 1982, erano le 9:20 del mattino, Pio Latorre fu ucciso per mano mafiosa. Da allora il tempo è trascorso. Il figlio Franco si è impegnato in politica, nell'ambientalismo, nell'antimafia, ma non aveva mai scritto di suo padre. Allora, la prima domanda che le faccio è: quanto è stato difficile scrivere questo libro? Se dico tanto, poi rischio di far quello che chissà quale impresa ha compiuto, però non è stato assolutamente semplice. Il fatto che me lo conferma è che ci ho provato più volte negli ultimi anni. Ho tentato varie volte, non ero venuto a capo, non ce l'avevo dentro. Invece questa volta devo dire, grazie anche a chi mi ha sollecitato, e io ne devo riconoscere il merito, andando per la Chiesa, che nell'autunno scorso, quasi rimproverandomi, mi disse: ma com'è possibile che tu non abbia scritto nulla su tuo padre? Io gli risposi: Nando, ci ho provato, non ci sono riuscito, e ho accolto, diciamo, il suo stimolo, e questa volta sono riuscito a portarla a termine l'impresa. E non è, credo di dire una cosa ovvia, non è mai semplice scrivere su un genitore che non è morto naturalmente, e che, come nel caso di mio padre, è una vittima innocente della criminalità organizzata di stampo mafioso. In questo penso, fatte tutte, diciamo, le debite differenze, i caratteri, le personalità, che il mio percorso di elaborazione del lutto, di cui questo libro è parte, è condiviso dalle altre centinaia e centinaia di persone che soffrono dello stesso genere di trauma profondo. E infatti non è anche, secondo me, un caso che sia stato proprio Nando Dalla Chiesa ad aprirla questa porta. Io volevo anche un po' ricordare ai nostri ascoltatori, molti sono anche giovani, l'importanza che ha avuto suo padre nella vita attualmente anche di tutti noi, perché suo padre è stato il primo firmatario della legge antimafia che ha introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa. Fa impressione, anche forse tenerezza, a leggere che chi ha collaborato alla formulazione proprio tecnica, no, di questo testo sono stati due allora giovani magistrati della Procura di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi questo è il tessuto in cui anche lei è cresciuto e che diventa un po' il centro del libro che lei ha scritto. Ecco, volevo chiederle anche se ce la racconta un po' questa infanzia, questa giovinezza insieme a suo padre, nella sua famiglia. Sì, se mi permette, intanto vorrei restituire, come ho cercato di fare attraverso la scrittura di questo racconto, un'immagine che vada oltre una legittima percezione pubblica dell'impegno politico di mio padre, che viene accostato, ma capisco, comprensibilmente, alla legge che introduce, come lei sottolineava, il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nel nostro codice penale, la Rognoni-Latorre. Rognoni, anche qui, per i più giovani, era l'allora ministro degli interni, quando nel 1982, in quel settembre, alcuni mesi dopo l'omicidio di mio padre, e come dicono gli storici e anche gli analisti politici, a una decina di giorni da un altro omicidio eccellente, quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il prefetto di Palermo, Questo ovviamente non, come dire, è parte del suo impegno, ma non è esclusivo. E come ho cercato anche di raccontare attraverso un appendice al libro, dove vengono presentati alcuni articoli, dal primo che scrisse quando aveva appena 18 anni sulla condizione degli studenti delle scuole professionali, una riflessione più generale sulla scuola, quello finale uscito postumo pochi giorni dopo il suo assassinio, sulla raccolta di firme contro un'installazione dei missili nella base di Comiso nel sud est della Sicilia, restituiscono diciamo una figura di un uomo politico con un trascorso anche di forte impegno sindacale a tutto tondo. Mio padre matura diciamo il suo impegno attraverso le lotte contadine per la riforma agraria all'inizio, alla fine degli anni 40 e inizio degli anni 50. E nel periodo in cui lui siede al Comune di Palermo si fa, diciamo, portavoce di una critica, un attacco continuo agli interessi speculativi e al malgoverno democristiano dell'epoca, in combutta con pezzi di mafia, Ciancimino, diciamo, uno fra tutti. All'Assemblea regionale siciliana spicca il suo impegno a sostegno di una piena attuazione dello Statuto dell'Autonomia, qualcosa di cui oggi nessuno parla più. È per lui uno strumento fondamentale, straordinario di democrazia e di partecipazione dei cittadini alla definizione, diciamo, degli obiettivi della propria terra, in quel caso la Sicilia. E poi, come dicevo citando l'ultimo articolo, il suo impegno pacifista che attraversa la sua vita sin dall'inizio, quando negli anni 50 manifestava a favore del smantellamento, diciamo, della scelta non nucleare, e alla fine, appunto, con la sua battaglia a Comiso contro l'installazione sia degli SS-20 dell'allora Patto di Varsavia, blocco comunista attorno all'Unione Sovietica, sia dell'Alleanza Atlantica guidata dagli Stati Uniti, la NATO. Quindi un La Torre che non è che mio padre, non è che passa la vita, tra virgolette, ossessionato dalla mafia. Per lui la mafia era l'ostacolo a un pieno sviluppo del paese dal punto di vista democratico, perché è contro la democrazia che quel sistema di potere politico-mafioso si scaglia, e contro un ostacolo allo sviluppo sostenibile della sua terra, un ostacolo al progresso positivo di coloro che soffrono, in quel caso i contadini poveri, oggi si potrebbe dire tutte quelle fasce diseredate, marginali della popolazione del nostro paese. Di libri su mio padre ne sono stati scritti, biografie belle, meno belle, insomma non sta a me poi giudicare, e anche saggi dedicati alla sua azione politica. Questo ha costituito uno degli elementi di difficoltà nello scrivere questo libro, perché ero perfettamente consapevole che non avevo nulla da aggiungere alla biografia politica di Pio La Torre, e non volevo mostrarlo dal buco della serratura. Non, quello che io riporto di personale è quello che io ritengo utile a comprendere, perlomeno il rapporto che c'era tra di noi. Né credo che avessi nulla da aggiungere dal punto di vista, diciamo, dell'analisi politica, anche perché io sono nato quando lui già, diciamo, è un affermato dirigente del Partito Comunista Siciliano, e quindi un pezzo della sua vita mi è, diciamo, praticamente sconosciuta, per il semplice fatto che non c'ero, ero così piccolo da non poterle accogliere, quindi non ero in possesso di particolari elementi utili a descriverne il profilo politico. Questa mi ha provocato una grande ambascia, perché appunto dovevo riuscire a collocare questo racconto in una prospettiva, chiamiamolo così, personale, senza però voler concedere nulla al pettegolezzo. Io di quegli anni non ben ricordo, da questo punto di vista però credo nulla di particolare, come credo che tutti coloro che ricordano la propria infanzia vicino ai propri genitori, in genere, se non sono stati, diciamo, dei ragazzi, delle ragazze, diciamo, dall'infanzia problematica, che disgraziatamente accade, per fortuna nella minoranza dei casi, ma nella maggioranza dei casi ognuno di noi conserva ricordi straordinari. In genere si assegna a quel periodo il marchio della felicità assoluta. E io credo, da questo punto di vista, di assomigliare a tanti ragazzi che come me hanno avuto la fortuna di crescere all'interno di una famiglia, diciamo così, sana, di buoni principi, educata a valori che ancora mi indirizzano. Due fra i tanti, quello che mio padre e mia madre mi hanno trasmesso è un forte senso di libertà affiancata a un grande senso, necessario senso di responsabilità. Le due cose vanno a braccetto, ho imparato io. Non si può essere liberi se non si è responsabili, e se si è responsabili si può essere liberi. La prima volta. Primo, per la pace in disarmo e contro l'installazione della base missilistica a Corfù. Secondo, per un piano regionale di sviluppo economico e sociale che si collega alla battaglia più generale del Mezzogiorno per imporre una politica di programmazione democratica a livello nazionale ed europeo. Terzo, per liberare la Sicilia dal sistema di potere mafioso. Questa che avete appena sentito è la voce di Pio La Torre e le priorità da lui stesso espresse nel corso di un congresso a Palermo del Partito Comunista, priorità che verranno trasmesse al figlio Franco. Quella di oggi è una puntata interamente dedicata al nostro paese e a chi ha contribuito a trasformarlo in un posto migliore. L'ospite di oggi è Franco La Torre, figlio di Pio, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982. Franco La Torre è un politico, intellettuale, ambientalista, un uomo che si è battuto e ancora oggi si batte e partecipa alla costruzione di un paese migliore. Eppure mai Franco aveva scritto di suo padre. È stato Nando Dalla Chiesa a spronarlo e ora in libreria trovate il libro Sulle ginocchia, Pio La Torre, una storia. In fondo la storia di un padre e di un figlio, ma anche la storia del nostro paese sempre più in ritirata su alcuni temi di fondamentale importanza, come ad esempio l'ambiente. Mi dispiace, anche perché mi riguarda personalmente, riguarda ancora di più mia figlia, intesa diciamo come la generazione che ci seguirà. No, è un'altra occasione persa, ma sfortunatamente siamo in ottima compagnia a livello globale. Ancora una volta le elite politiche, anche quelle economiche, ci danno una dimostrazione di forte miopia. Capisco, non è semplice riconvertire un modello di sviluppo, però è una generazione. Se vogliamo segnare uno spartiacque, non so quanti siano appassionati di questi argomenti, ma fu il 1992 con una straordinaria conferenza delle Nazioni Unite che si svolse a Rio de Janeiro, dove una volta per tutte si segnò il cammino, l'unico cammino possibile, quello di uno sviluppo sostenibile, compatibile, non solo dal punto di vista sociale, culturale, ci mancherebbe altro, come deve essere, ma anche dal punto di vista ambientale, cioè della piena considerazione e consapevolezza che viviamo in un pianeta con risorse finite e viviamo in un pianeta dinamico che reagisce ai tentativi di mutamento che la razza umana, sicuramente la più potente razza che abbia abitato il pianeta nella sua storia, introduce o inconsapevolmente o egoisticamente, ovvero non considerando quali riflessi possono avere poi il modello di sviluppo economico sui destini e le vite, non tanto delle generazioni correnti, noi ce ne andremo presto da questa terra, ma di quelle future, e lì il forte egoismo della serie ci penseranno loro, tradendo diciamo un consolidato nella storia dell'umanità che in genere noi abbiamo ereditato dalla generazione precedente, sempre un grande patrimonio. Questa è la prima volta che la generazione attuale dilapida quel patrimonio. E lo si sente, insomma, questo vuoto a livello europeo, poi a livello italiano assolutamente, perché proprio non si parla più di ambiente. Così come a me sembra che si parli sempre meno di mafia. Ecco, questa è un'altra domanda che le volevo fare. E sia nell'uno come nell'altro caso mi verrebbe da dire, ma capisco che poi la spocchia rischia di prevalere, che poi il problema non è tanto parlarne, perché ci sono stati momenti in cui si è parlato molto di ambiente, molto di sviluppo sostenibile, quasi alla nausea, così come di antimafia, di mafia e di antimafia. Il problema è agire, il problema è fare, non organizzare conferenze bellissime, interessanti, dibattiti, seminari e workshop, eccetera, eccetera, eccetera, ma è, come sappiamo, sempre nell'azione umana è l'agire che fa la differenza, non che sia contrario alle riflessioni profonde che poi guidino l'agire, ma se ci si limita soltanto a riflettere e non si fa, diciamo, seguire alla riflessione un'azione conseguente, il rischio di trovarsi nelle situazioni in cui siamo è profondo, certo, e sono d'accordo con lei nell'aggiungere che in questo momento anche il dibattito è un po' povero. Dal dibattito pubblico in effetti questi temi sono meno presenti come lo erano rispetto a quanto lo fossero in passato, e non ci possiamo consolare dicendo vabbè, se ne parla meno ma si agisce di più. Se ne parla meno e non si agisce, e quindi è difficile, io credo che sia molto difficile. Mi metto sempre nella testa degli altri, come quegli investigatori nei romanzi gialli che per catturare il delinquente si mettono, cercano di ragionare con la loro testa, diciamo la lezione più importante che ci hanno trasmesso i grandi investigatori, e io cerco di entrare nella testa di chi resiste, di chi non vuole cambiare, e mi rendo conto che è difficile cedere la propria posizione dominante. Chi ha una rendita di posizione, chi è convinto che solo lo status quo può confermare la sua posizione di rendita, di privilegio o meno, lo capisco, nessuno nasce generoso ci si diventa, diciamo un processo culturale. E mi rendo conto che c'è una forte resistenza da parte loro. Allo stesso tempo vedo che la posizione di potere che coprono le élite economiche e politiche sarebbe molto utile se queste stesse decidessero di mantenere la loro posizione però cambiando. Però non capisco perché, o meglio, ho la mia tesi, ma non è un dibattito di storia questo, del perché le élite preferiscono lo status quo invece del cambiamento. E alla fine glielo dico, perché il cambiamento non sempre garantisce il mantenimento delle posizioni dominanti nello status quo, e quindi pur di non cedere un pezzo del loro potere preferiscono condannarci a un destino come questo. La prima volta termina qua, venite a trovarci sulla nostra pagina, andate sul sito di Radio 24, cercate La prima volta, lì troverete tutti i riferimenti, quindi indirizzo email, pagina Facebook e anche tutte le puntate da riascoltare, compresa questa. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.